fatto anche in Satana. Santico Testamento Ana conosce il futuro? Con questo breve scritto non voglio fare un'esposizione teologica, ma esprimere un parere, nel limite delle mie capacità e senza pretesa di dire l'unica e l'ultima risposta, intorno ad un problema che mi ha attanagliato per anni e che, molto probabilmente, rende perplessi molti credenti. Non possiamo ignorare che al giorno d'oggi siamo circondati da chiromanti, indovini, pronosticatori, eccetera. Tutti sappiamo che ogni giornale che si rispetti ha il suo oroscopo e che la televisione, il primo giorno dell'anno, trasmette le predizioni dei più famosi e stimati chiromanti. Ora che queste persone e le pratiche che esse svolgono non siano secondo la volontà di Dio, risulta evidente dalla scrittura che, ancora una volta, prendiamo come regola per discernere il bene dal male. Infatti, prima ancora che il popolo di Israele entrasse nella terra promessa, l'Eterno Dio lo ammonì con queste parole: quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, il Dio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che son quivi. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliolo o la sua figliola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E, a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, l'Iddio tuo, poiché quelle nazioni del cui paese tu vai ad impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. Deuteronomio 18:9-14. Nel libro del Levitico l'Eterno Dio espresse poi la sua completa disapprovazione per queste pratiche, e se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di fra il suo popolo. Levitico 26. Se un uomo o una donna ha uno spirito o indovina, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su di loro. Levitico 20:27. Ma i figli di Israele non fecero caso alla severità di questo precetto e imitarono gli altri popoli. Perciò l'Eterno li allontanò dalla sua presenza. La conoscenza del futuro appartiene all'Eterno. Stabilito che è peccato predire il futuro, cerchiamo ora di vedere se Satana possa avere e dare queste capacità. Pur riconoscendo che alcuni approfittano della semplicità di altri per ingannarli con queste pratiche, dobbiamo onestamente ammettere che ci sono fatti che lasciano perplessi. Ho letto di tre donne che andarono da una chiromante per sapere l'avvenire. Questa a due di loro lo predisse, ma alla terza dichiarò che per lei non c'era futuro. Infatti, subito dopo, nell'attraversare la strada per tornare a casa, essa fu investita da un'auto e morì sul colpo. A prescindere dalla spiegazione che possiamo dare, una cosa rimane graniticamente ferma: la conoscenza del futuro appartiene esclusivamente all'Eterno Dio. Mediante il profeta Isaia più volte l'Eterno Dio sfida coloro che hanno una fede pagana a chiedere al loro Dio di rivelare il futuro. Ecco alcune affermazioni. O chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Che lo dichiari e me lo provi. Lo annunzino essi l'avvenire, e quel che avverrà. Isaia 44:7. O presentate la vostra causa, dice l'Eterno, esponete le vostre ragioni, dice il re di Giacobbe. Le espongano essi, e ci dichiarino quel che dovrà avvenire. Le vostre predizioni di prima quali sono? Ditecele, perché possiamo porvi mente e riconoscerne il compimento, ovvero fateci udire le cose avvenire. Annunziateci quel che succederà più tardi, e sapremo che siete degli dèi. Sì, fate del bene o del male, onde noi lo vediamo e lo consideriamo assieme. Isaia 41:21-23. O annunziatelo, fateli appressare, prendono pure consiglio assieme. Chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e l'ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, l'Eterno? E non v'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, e non v'è Salvatore fuori di me, Isaia 45:21. Oh, ricordate il passato, le cose antiche, perché io son Dio, e niuno è simile a me, che annunzio la fine sin dal principio, e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute, che dico? Il mio piano sussisterà, e metterà ad effetto tutta la mia volontà. Isaia 46, 9-10. Gesù predisse il futuro per dimostrare che era figlio di Dio. La verità che solo Dio conosce il futuro è talmente ferma che egli ne dà anche la controprova. Nel capitolo 18 del Deuteronomio, l'Eterno Dio vieta al popolo qualunque pratica divinatoria. Questo non vuol dire che Dio precluda all'uomo ogni possibilità di conoscere il futuro. Infatti, l'Eterno Dio afferma: quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto diversamente. L'Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un profeta come me, mezzo a te, di fra i tuoi fratelli. A quello darete ascolto. Deuteronomio 18 e 15. In questo modo Dio viene incontro all'inclinazione dell'uomo di conoscere il futuro. Però avverte: ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli abbia comandato di dire o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà punito di morte. Deuteronomio 18, 19-20. E a questo punto che Dio, conoscendo la nostra debolezza umana e il problema che inevitabilmente sorge, dice: e se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che l'Eterno non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome dell'Eterno, e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che l'Eterno non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione. Tu non lo temere. Deuteronomio 18, 21-22. Quindi l'avverarsi di una profezia è per l'uomo il segno che essa è stata predetta da parte di Dio. Una evidente prova ne è Geremia, che, benché profeta, riconobbe una profezia da parte di Dio dopo che questa si è avverata. Geremia 32, 6811 e 28,9. Gesù stesso ha predetto il futuro sia per provare la sua divinità, sia per infondere fede nei suoi discepoli. Oh, io non parlo di voi tutti, io so quelli che ho scelti, ma, perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto voi crediate che sono io. Giovanni 13, 18-19. Oh, ma io v'ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno vi ricordiate che ve le ho dette. Giovanni 16, 4. Oh, e ora ve l'ho detto prima che avvenga affinché quando sarà venuto crediate. Giovanni 14 e 29. Se Satana avesse avuto la capacità di prevedere il futuro, Gesù non avrebbe parlato in quel modo. Satana non prevede, ma si impegna. Allora, come conciliare tutto questo con certe predizioni di coloro che praticano arti magiche che si avverano? Ci sono poi affermazioni bibliche che, lette superficialmente, fanno sorgere delle perplessità. Alcuni credenti, per esempio, vedono nell'affermazione che Satana è furioso perché sa di non aver che breve tempo, Apocalisse mezzogiorno 12, la sua capacità di prevedere la fine. La cosa, a mio avviso, non è difficoltosa. Satana sa perché Dio glielo ha detto, altrimenti sarebbe scritto prevedendo di non aver che breve tempo. Più problematici sono quei versetti dove si par prima di un sognatore che predice qualcosa che poi avviene, Deuteronomio 13, 1-2. Fra le tante risposte, quella che mi soddisfa di più è questa: quando Satana predice il futuro non lo fa perché lo prevede, ma impegnandosi ad adempiere quanto ha predetto. Cioè, se un chiromante afferma che fra 3 mesi mi romperò una gamba, il diavolo impegnerà tutte le sue forze malvagie a far sì che questo succeda. In questo modo si spiega perché non tutte le predizioni sataniche si avverano. Di tanto in tanto Dio si compiace di rompere i piani del maligno per dimostrare almeno ai credenti, dato che gli increduli sono accecati, che queste persone non sono da Dio. Io rendo vani i presagi degli impostori e rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i savi e muto la loro scienza in follia. dice Dio per bocca del profeta Isaia, Isaia 44, 25, 26. Così l'avverarsi di una profezia di Satana non risiede in una sua capacità di prevedere il futuro, ma è una concessione che Dio gli fa. Anche se momentaneamente l'avversario ottiene quel che desidera, questo non deve turbare il credente perché ciò che è stato concesso glorifica Dio. Da lui dipendono chi erra e chi fa errare, afferma Giobbe, Giobbe mezzogiorno e 16. E Geremia domanda: chi mai dice una cosa che si avveri se il Signore non l'ha comandato? Lamentazioni 3:37. Quindi Satana è sottoposto alla potenza e al volere di Dio in modo tale da essere costretto all'obbedienza. Che gli piaccia o no, anche lui serve e glorifica il suo creatore, come è scritto. Certo, il furore degli uomini ridonderà alla tua lode. Salmo 76:10. Tenersi stretti a Dio. Secondo il nostro criterio, sarebbe molto più comodo per Dio impedire a Satana di realizzare le sue profezie, ma egli non lo fa per almeno due motivi. Lasciando questa possibilità al suo avversario, Dio dimostra che rispetta e riconosce la sua posizione di principe di questo mondo. In secondo luogo, si serve di lui per mettere alla prova i credenti, per vedere se amano l'Eterno con tutto il loro cuore e con tutta l'anima. Tutto ciò che appartiene al soprannaturale e si presenta a noi nel nome di Dio deve essere vagliato alla luce delle Scritture. Se dopo un attento esame vediamo che ci porta lontano anche da un solo chiaro ed esplicito insegnamento di Dio, dobbiamo ritenerlo satanico. Ricordiamoci che Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre alcune. Quando il diavolo si presenta come angelo di luce, porta inevitabilmente con sé anche delle tenebre. Saranno sufficienti quelle per far comprendere al credente accorto che la luce che gli si presenta è satanica. Questo pericolo, dobbiamo ammetterlo con rammarico, può sorgere nella nostra famiglia e sia in seno alla nostra comunità attraverso coloro che sono tra di noi ma non sono dei nostri. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e vi sbigliano, rispondete: un popolo non deve egli consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti a pro dei vivi, alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. Isaia 8:19-20. I pericoli sono tanti, ma l'Eterno Dio ci mostra come non essere sedotti da tale persone. Seguirete l'Eterno, l'Iddio vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, a Lui servirete e vi terrete stretti. Deuteronomio 13:4. Ecco la soluzione. Seguire, temere, osservare. Ubbidire, servire l'Eterno Dio. Tenersi stretti a Lui quale si è rivelato nelle Sacre Scritture. Ognuno di noi ha bisogno del soprannaturale perché tutti abbiamo bisogno di Dio. Se il soprannaturale di cui ci nutriamo non è Dio, è Satana. La vita cristiana è un combattimento contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ma, per fede, possiamo far nostre le parole del profeta Isaia. Fate pure dei piani e saranno sventati. Dite pur la parola e rimarrà senza effetto, perché Dio è con noi. Isaia 8:10. Se tu che leggi queste righe sei implicato e sei stato coinvolto in qualche seduta spiritica o ti hanno fatto le carte, imposto le mani, anche per gioco, ti invito a confessare ciò che hai fatto pubblicamente davanti alla Chiesa. Non è sufficiente aver confessato il peccato davanti a Dio o davanti a pochi fratelli, perché il diavolo bisogna sconfessarlo pubblicamente. In qualche modo ti sei vincolato con Satana perché egli ti ha fatto un favore e per questo tu gli sei debitore. Devi dichiarare davanti alla Chiesa che non vuoi più avere a che fare con il maligno e i suoi emissari. Ricordati che ogni cosa fatta in segreto verrà resa pubblica. Ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato, né di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. Luca 12:2-3. La confessione pubblica potrà costarti tanta fatica e lacrime, ma tutti coloro che hanno rinnegato davanti alla Chiesa il diavolo e le sue opere sono stati liberati da pesi, tormenti e persecuzioni. Per alcuni la liberazione può essere più lunga, ma occorre riposare sulla promessa di Gesù. In verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Non indugiare e non avere paura, perché l'amore perfetto caccia via la paura. 1 Giovanni 4,18. Maggio 1985. Ellero.